sei passata su di me come una gocciola di latte nel caffè, come una favola raccontata alla marea, come se io fossi il tuo poeta e tu la dea, quarto di luna blu che mi guardi dall'assù, ogni qualvolta che chiudo gli occhi penso a te, entra nel cuore mio, fatti spazio finché ce n'è, e poi riempimi di crema come un come noi che celiamo una lacrima dolce che brilla d'argento, luna blues, tu sai tante cose di me, ma io cancello tutto quando tu mi guardi con la musica e tutto quel che ho, solo con lei ti racconterò di me, da sempre innamorato di te. Thank you.